Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente l'intervento del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Oggi ha inaugurato Draghi l'anno accademico all'Università Bocconi di Milano, presente anche l'ex rettore, ossia il Presidente del Consiglio Mario Monti, anche lui è intervenuto. Draghi ha toccato molti temi, li commenteremo con chi era presente, perché ha parlato sì di tassi di interesse, ma ha parlato anche, oltre che da economista, anche quasi da sociologo, sull'identità dei paesi europei, sul ruolo che può e non può avere la Banca Centrale Europea, su come si consolidi, quindi si mettano in ordine i conti, e non può avvenire con un aumento ulteriore delle tasse, ma ha anche riservato qualche battuta alla Germania, perché ha detto, insomma, attenzione, anche la Germania rischia da questo punto di vista, e soprattutto dovrebbe essere interesse del paese creditore, cioè di chi ha prestato i soldi, ma la salute dei paesi a cui tu questi soldi hai prestato. Ossia, se poi salta, diciamo, o dovesse saltare il giocattolo, è chiaro che chi ci rimette di più è il paese più esposto. Com'è che la Germania presta soldi? Comprando titoli di Stato, come fanno anche altri paesi. Il ragionamento, devo dire che spesso anche noi non lo ricordiamo, ma è un ragionamento più che corretto. Cioè, così come una banca, se presta soldi a un imprenditore, fino a un certo punto ha interesse a non strangolarlo, perché se poi lui fallisce perde tutto il credito alla banca, allo stesso modo la Germania dovrebbe avere un interesse nel non far precipitare in una recessione senza fine, un avvitamento, l'area del sud Europa, mettiamola così. Oggi i dati diffusi dall'Unione Europea sono netti su questo, e cioè nell'area 17 è recessione anche nel terzo trimestre, meno 0,1%, e aveva fatto meno 0,2 e 0 nei trimestri precedenti. In Italia sostanzialmente il calo acquisito a questo punto è del 2%. Frena a sorpresa anche la Germania, che cresce solo dello 0,2% rispetto allo 0,5 del primo trimestre e allo 0,3 del secondo, e torna a crescere anche l'insolvenza delle imprese tedesche. Di questo poi parleremo. Chi va meglio delle attese è la Francia, sopra le stime più 0,2%, quindi cresce come la Germania, la Francia. La Spagna invece prolunga la sua recessione, meno 0,3% per quello che riguarda il dato spagnolo, e tra l'altro in Spagna è stata annunciata una moratoria di 2 anni dei pignoramenti per i proprietari delle case delle fasce più deboli. C'era infatti una situazione di emergenza. Sappiamo che in Spagna c'è stata una bolla immobiliare pesante, dopo l'Irlanda direi la più pesante forse dell'intera area euro, e lì stanno scattando, come prevedibile, migliaia di pignoramenti che vanno a toccare anche e soprattutto le fasce più deboli. Ecco perché il governo è dovuto intervenire bloccando una moratoria di fatto sui pignoramenti, per cui per 2 anni non potranno essere pignorate le case abitate e comprate dalle fasce più deboli della popolazione. Dicevo, per quello che riguarda invece l'Italia, ha confermato un meno 2,4% del PIL italiano quest'anno, il quinto trimestre in rosso, quello che oggi è stato diffuso, il quinto trimestre in rosso per la nostra economia. Ormai appunto siamo già un meno 2, chiuderemo con un meno 2,4%. Dicevo, a fronte di questi dati i segnali di uno scricchiolio anche in Germania si vedono, e si vedono tutti. Di questo parleremo in apertura, poi continueremo con invece la parte italiana, ossia la legge di stabilità, che tra mercoledì e giovedì prossimo va all'esame della prima Camera, quindi della Camera. È stata modificata in tanti di quegli aspetti che cercheremo di tracciare poi un riepilogo. Sarà una legge che va al voto parlamentare in maniera molto molto diversa rispetto a come era stata inizialmente formulata, con tutte le polemiche che avevano accompagnato le riduzioni delle franchigia o piuttosto che la retroattività di alcune misure fiscali. 349-238-6666 per i vostri sms. Chiuderemo con la cultura, gli stati generali della cultura. Radio 24 oggi segue con un Radio Day in tutti i suoi GR questo appuntamento importantissimo. È intervenuto questa mattina il Presidente della Repubblica Napolitano, abbiamo ascoltato anche alcuni passaggi del suo intervento. Quattro ministri presenti, concluderà adesso il ministro Passera, ma anche il ministro Barca è intervenuto in mattinata, e poi gli altri interventi li racconteremo dalle 18.15 in poi. Le borse come vanno? Vanno leggermente male, nel senso che Milano perde lo 0,3%, come Parigi, Francoforte perde lo 0,7%, Londra pure, l'America perde lo 0,18%, euro a quota 1,28 sul dollaro. Tra i titoli oggi va bene in pregilo, più 2,40, Fiat più 1,50, Unicredit più 1,20, Monte dei Paschi più 0,80, male Saipem meno 4, A2A meno 3,60, come Campari, Autogrill meno 3,20, Mediaset meno 2,40, Estima Microelectronics meno 2,30, Azimut meno 1,70, Telecom meno 1,60, l'Automatica meno 1,30, come la Popolare di Milano, il Banco Popolare perde l'1% come Atlantia e Terna. Dicevo 349-238-6666 per i vostri sms, ma anche la pagina di Facebook per chi volesse porre domande e osservazioni attraverso il computer. Le altre notizie in breve. Vedo che alcuni di voi già scrivono sulla Francia. La Francia, guardate che come capacità competitiva le nostre imprese non hanno niente da invidiare alla Francia, anzi noi restiamo per valore il secondo paese per export in Europa, e abbiamo un manifatturiero che esporta molto di più di quello francese, come migliaia di imprese. Loro hanno i grossi colossi più o meno partecipati dallo Stato. Però al di là del settore lusso, dove obiettivamente hanno fatto uno shopping di cui abbiamo spesso anche parlato, comprando anche tra i marchi migliori italiani, però faccio solo notare che la Francia ha un sistema di welfare efficiente, cioè una pubblica amministrazione efficiente, e comunque un welfare che aiuta molto le giovani coppie, le giovani madri, insomma, un welfare obiettivamente da paese quasi scandinavo, se andiamo poi a analizzare nel dettaglio. E infatti in Francia il calo pesante dei consumi non si è registrato in maniera così, perlomeno così pesante, come in altri paesi a partire dall'Italia. E al di là delle nuove stime, sono dati acquisiti ormai, visto che si parla del terzo trimestre dell'anno, il petrolio oggi è a $86,47. Vale la pena ricordare come la compagnia petrolifera British Petroleum sia stata multata, o meglio, stia per essere multata e riceverà una multa record per il disastro nel Golfo del Messico. Ricorderete il disastro della Deepwater Horizon nel 2010 nel Golfo del Messico. Secondo la BBC la multa sarà tra i 3 e i 5 miliardi di dollari. Sarebbe, se confermata, la multa più alta mai pagata negli Stati Uniti per una simile penale. In Cina, ufficialmente nominato Xi Jinping nuovo segretario del Partito Comunista Cinese, succede a Hu Jintao alla guida del partito, e a marzo gli succederà anche come presidente della Cina, nominato anche capo della Commissione Militare Centrale, che significa che Hu Jintao lascia tutte le cariche e non conserverà, come invece fece Jiang Zemin, il controllo dell'esercito. Il numero dei membri del comitato permanente che governerà il paese per i prossimi 10 anni è sceso a questo punto da 9 a 7. tutti confermati comunque i nomi attesi. E poi il Fondo Monetario Internazionale che dice attenzione, dice due cose oggi, il debito greco deve arrivare a scendere al 120% del PIL, ma vogliamo una soluzione reale del problema, non una soluzione di breve termine. Però poi ha anche detto attenzione, se l'America non trova un accordo per il famoso fiscal cliff si rischia una recessione pesantissima negli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato a lungo durante i giorni precedenti le elezioni americane, bisogna trovare un accordo tra il Presidente e il Congresso in tema di aumento delle tasse come vorrebbe Obama per i più ricchi e riduzione di alcune spese, perché altrimenti il 31 dicembre scadono in contemporanea tutto un insieme di agevolazioni fiscali e incentivi e in automatico partono aumenti di tasse negli Stati Uniti, con un effetto stimato, se non vi dovesse essere un accordo tra il Congresso e il Presidente, di un calo del PIL americano per il 2013 del 5%, che vorrebbe dire un disastro anche per le economie europee. Veniamo all'Italia, all'IVE, l'impianto IVE di Taranto potrebbe chiudere il 14 di dicembre per mancanza di materie prime e questo comporterebbe gravissimi rischi per la sicurezza, lo sostiene il presidente Bruno Ferrante, che ha lanciato un allarme con una lettera inviata alla magistratura e anche pubblicata poi dall'ANSA, mentre c'è un Sergio Marchionne che oggi racconta che la fusione tra Fiat e Chrysler procede come previsto e avverrà nel 2014, è una mossa inevitabile. Ha ricordato oggi da New York in un'intervista da Automotive News che ha venduto il gruppo Fiat Chrysler 4.300.000 vetture, venderà nel 2013, di cui almeno 2.600.000 a marchio Chrysler. Su questo tra l'altro vi saranno anche delle assunzioni negli Stati Uniti. Un paio di notizie sulla crisi strana, visto che parleremo poi anche dei soldi per la cultura che mancano. Beh, ci sono notizie un po' particolari di una crisi vista dagli altri. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, mentre il governo prepara comunque tagli alla scuola, centinaia di milioni tra l'altro, non so nemmeno come dirla, perché grazie ad un insieme di esperti scientifici nominati dall'allora ministro Gelmini arrivano soldi a palate a un'azienda privata, che è l'azienda privata di Ilaria Sbressa, moglie di Andrea Ambrogetti, direttore delle relazioni istituzionali di Mediaset e presidente dell'associazione del digitale terrestre. Ecco come Massimo Zennaro, ex portavoce da Gelmini, quello che finì nella bufera per il famoso tunnel del Gran Sasso, perché si complimentò per i neutrini, ed è diventato adesso detto stampa di Barbara Berlusconi, ha stanziato 1.300.000 euro da destinare a prodotti multimediali per la scuola. Una commissione mista, MIUR ANSAS, decide di investire 730.000 euro per comprare 19 pillole del sapere realizzate proprio dall'azienda della Sbressa, un format di filmati della lunghezza di 3 minuti ciascuno che aveva depositato in Consip, che è la società del Ministero dell'Economia che serve per ottimizzare e rendere più trasparenti gli acquisti della pubblica amministrazione. Lo dico perché domenica prossima Report, come anticipa anche oggi il Corriere della Sera, se ne occuperà Milena Gabanelli. Va tutto bene, nel senso che non abbiamo motivi per dubitare della validità scientifica di queste 19 pillole per sapere, un po' carucce, a 730.000 euro per 3 minuti. Vuol dire che per un'ora hai pagato 730.000 euro, così capisco io, un'ora di pillole hai pagato 730.000 euro, vabbò. Dico solo, siamo sicuri che con i tagli che sta subendo la scuola, questo 1.300.000 euro, di cui 730.000 per le pillole, fosse così necessario? E invece l'Istat ci ricorda come stiano cambiando anche i rapporti sociali, i rapporti relazionali con questa crisi. Perché? Perché la soddisfazione per le proprie condizioni di vita cala e cala costantemente, ma mentre cala la soddisfazione per la vita in generale, aumenta la soddisfazione nelle relazioni amicali e familiari. Nel 2011 infatti la risposta alla questione dell'Istat è andata in questa direzione, tant'è che l'Istat dice la crisi morde, ci si rifugia sempre più nella famiglia e negli amici. Sì, tutto bene, se continua così uno fa un po' la famiglia, capito, la stermina con questa crisi come battuta. Però attenzione, perché lo dico? Perché l'Istat fa anche notare come siano aumentate le famiglie che dichiarano di non poter sostenere spese impreviste per 800 euro. Siamo al 38,5% contro il 33% dell'anno scorso. Sono 5 punti in più. E anche sono aumentate notevolmente quelle che sostengono di non potersi permettere una settimana di ferie all'anno, da 39 a 46%. E quelle che dicono che non possono comprarsi un pasto con carne o pesce ogni due giorni, dal 6% al 12%. Nel frattempo, e chiudiamo, la Germania non solo sta facendo incetta di capitali e riesce a praticare tassi di interesse bassissimi sotto zero, non solo la Germania come Stato, anche le imprese, ricordate l'inchiesta sulla Volkswagen che faceva concorrenza grazie ai tassi in Germania a Peugeot e Fiat e l'arrabbiatura di Marchionne, ma la Germania si sta anche approvvigionando non di manodopera classica, di manodopera qualificata, perché dai paesi del sud Europa la tendenza, oggi il dato è ufficiale pubblicato in Germania, nei primi sei mesi del 2012 sono aumentati del 15% gli immigrati che arrivano da Spagna, Italia, Portogallo e Grecia, e sono 447.000 stranieri, e la maggior parte proviene appunto dai paesi dell'Unione Europea, e gli incrementi più forti si hanno proprio in Spagna e Italia. Detto ciò, restiamo sugli scenari economici. Oggi appunto Mario Draghi e Mario Monti, i due Mario, alla Bocconi per l'inaugurazione dell'anno accademico. Dicevamo cerimonia di inaugurazione, nell'occasione è stata anche inaugurata la Tommaso Padoa-Schioppa Visiting Professorship, ossia una cattedra finanziata dalla Banca Centrale Europea, per ricordare Tommaso Padoa-Schioppa che era alunno della Bocconi, e l'intervento appunto del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Siamo in collegamento con uno dei docenti della Bocconi, oggi presente chiaramente in Aula Magna, Franco Bruni, che insegna economia degli intermediari finanziari e editorialista della Stampa. Buonasera professore. Buonasera. Mario Draghi, vado subito ai temi che a lei stanno più a cuore, quelli anche di carattere internazionale, di politiche economiche. Ha detto crescita debole anche nel 2013 nonostante le misure prese, siamo pronti a intervenire come Banca Centrale Europea per lo scudo anti-spread. E poi ha fatto il primo richiamo alla Germania. La stabilità finanziaria è nell'interesse di tutti, soprattutto di quel paese che vanta molti crediti verso gli altri. È importante capire che la stabilità finanziaria all'interno dell'area dell'euro è nell'interesse di tutti, ma in primis dei paesi creditori che hanno le esposizioni maggiori. Quanto maggiore la sfiducia, tanto più sono i flussi di capitale che vanno verso alcuni, un paese in particolare, ma insomma i paesi che sono maggiormente creditori. In questo modo tanto più aumenta la loro esposizione nei confronti degli altri paesi. Questi sono rischi, ma diventano certezze nel caso di frattura dell'area dell'euro. Diventano vere perdite. Quindi l'assicurare la stabilità finanziaria è in primis nell'interesse dei paesi creditori. Dicevo, professor Bruni, all'inizio del programma, è un concetto, quando parliamo della Germania, del perché la logica tedesca di potersi salvare da sola sia una logica folle, è un aspetto che non mettiamo spesso in rilievo, però c'è anche questo, cioè, un po' come le banche quando prestano soldi a un'impresa devono cercare di non strangolarla poi con i rientri, perché sennò gli muore l'impresa e non vedono più un euro. Anche la Germania, se ho ben capito, ma mi aiuti lei, il ragionamento di Draghi, deve stare attenta perché è lei che sta ricevendo finanziamenti e soldi e quindi e dà e anche e vanta crediti nei confronti del resto d'Europa. Certamente vanta crediti e quindi è interessata, come tutti i buoni creditori, alla sopravvivenza e alla ripresa dei suoi debitori, ma teniamo conto anche che in questi anni la Germania ha avuto dei redditi da questi crediti molto elevati, cioè i differenziali di tassi fra il tasso tedesco e il tasso greco, ma non solo in Grecia, in Portogallo, in Irlanda, in Spagna, eccetera, sono stati sfruttati grandemente dalla Germania, che ha incassato interessi elevati, quindi e questo era la contropartita dei suoi avanzi dei pagamenti, cioè lei produceva, esportava più di quello che importava, la differenza la investiva all'estero in titoli anche rischiosi che però davano un elevato rendimento, quindi adesso non può non essere interessata a aiutare i paesi debitori in difficoltà. Poi abbiamo visto anche Draghi ricordare come la Banca Centrale Europea non si sostituirà comunque all'azione dei governi nazionali e poi vediamo invece un Draghi meno consueto, perché ha citato uno dei più grandi filosofi o sociologi, secondo come lo si voglia vedere, viventi, mi riferisco a Zygmunt Bauman. Però prima sentiamo Draghi su quello che può e quello che non può fare la Banca Centrale Europea. Si sono sventati esiti potenzialmente rovinosi della crisi, si è guadagnato tempo prezioso, ma non infinito. La BCE però non può sostituirsi all'azione dei governi nazionali, né sotto il profilo dell'efficacia della politica economica, né soprattutto sotto il profilo della legittimità democratica. In ultima analisi spetta ai governi il compito di dissolvere definitivamente le incertezze che persistono nella percezione dei mercati e nei timori dei cittadini. L'obiettivo finale è l'unione politica, un'Europa stabile e integrata con un destino comune. Ci vorrà molto tempo lungo un percorso incerto, ma nel frattempo sarebbe un errore non agire. E adesso il Draghi a cui facevo riferimento, professor Bruni, quello che dice, attenzione, è grazie all'Europa che uno poi, lo scudo europeo, che ogni paese potrà mantenere le sue identità, le sue specificità, se vieni privato di questo scudo rischi di perdere anche la tua identità perché sei più esposto alle forze globali. È essenziale che tutti i soggetti che contribuiscono all'ampio e articolato percorso di riforma dell'Europa mantengano gli impegni presi. Dobbiamo procedere lungo questa linea con calmo pragmatismo, chiedendoci quali siano i requisiti minimi per completare l'unione economica e monetaria. Sono tutti alla nostra portata, comprese le riforme fiscali e le politiche strutturali per la competitività e la crescita. Lungo il cammino dobbiamo farci guidare dal principio secondo cui nessun paese è legittimato a condurre politiche che danneggino gli altri membri della comunità di cui fa parte. La costruzione di un'architettura istituzionale europea basata su questo fondamento non risponde soltanto a un'istanza di responsabilità. Senza la condivisione della sovranità nazionale a livello europeo, la stessa sovranità dei singoli stati è in pericolo. Questa è la prima lezione della crisi per noi europei. Non si tratta solo di economia e di finanza. Possiamo, con Zygmunt Bauman, estenderla ad ambiti assai più ampi. Ha scritto Bauman, la casa europea non va a detrimento delle culture nazionali, ma provvede a una sorta di tetto comune a tradizioni, valori, differenze locali. E il paradosso è che ogni singolo paese è molto più a rischio di perdere la sua identità specifica se si espone senza protezione, cioè senza questo scudo europeo, alle forze globali che sono violentemente e spudoratamente sovranazionali. Ignorano i tempi e le specificità locali. Beh, anche questo mi sembra un buon punto, anche verso chi dice usciamo dall'euro, usciamo dalla casa europea, professor Bruni, perché se ho ben capito anche qui Draghi dice attento che da solo pesi ancora di meno, conti ancora di meno e verrai travolto ancora di più dalla globalizzazione, cioè diventerai una specie di di stato così satellite rispetto al bipolarismo Cina-Stati Uniti? Certamente, questa pedagogia, diciamo, di Draghi è importante, deve entrare nella testa. È la ragione per cui gli europei devono mettersi insieme per non naufragare nel gran mare. Dopodiché ci può essere chi naufraga meglio e chi naufraga peggio, ma certamente le identità nazionali si difendono più in un contesto istituzionale dove si può contare sull'integrazione e sulla solidarietà degli altri europei. Lei come l'ha trovato Draghi oggi? In splendida forma. Sì. Anche se chiaramente preoccupato, come sono preoccupati tutti in Europa, perché questi passi straordinari che sono stati messi in programma, alcuni dei quali dovrebbero arrivare a scadenza e a decisioni importanti entro la fine dell'anno, per esempio l'unione bancaria, sono dei passi straordinariamente importanti, ambiziosi e ci risolverebbero alla radice. Il problema è che abbiamo tutti paura che si inceppino, e se si inceppano riparte, si fanno troppe illusioni. Riparte il giro degli spread. Sì, anche perché ricordo per esempio nel caso dell'Unione Bancaria si tratterebbe di avere una supervisione europea sulle banche principali, non è una cosa da poco, perché vorrebbe dire poi garantire anche sulle banche, oltre che avere supervisione, fare anche da garanzia, professore. Ma il problema che sta nascendo purtroppo è che si parla molto di supervisione, ma la supervisione può essere anche accettata da tutti, ma quello che non viene accettato è quella parte della supervisione che per esempio in Banca d'Italia è fortissima, che costituisce in sostanza la prima gestione della crisi, cioè quando una banca comincia a avere delle difficoltà, ancora è lontana da ogni prospettiva, diciamo, di bancarotta, ma ecco, l'autorità di vigilanza deve avere la possibilità di fare queste early intervention, questi interventi tempestivi per riuscire a prendere in mano la gestione ed evitare che la cosa precipiti, esatto. E questi poteri non, per adesso sembra chiaro che non c'è chiarezza nella disponibilità dei paesi, in particolare della Germania, di dare questa autorità. Allora se non c'è questa autorità la vigilanza comune rischia di essere un'arma spuntata e molto retorica, dove la BCE finisce a ricevere dei poteri molto teorici che poi non riesce a... Professore, resti con noi ancora qualche minuto, se può. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Mario Monti, professor Bruni, che interviene soprattutto sui giovani, vorrei capire anche, visto che ci dava il suo commento sull'intervento di Mario Draghi preoccupato, come ha trovato il suo ex rettore, no? Preside di facoltà. Poi sentiamo Monti sui giovani e poi il suo commento. Dobbiamo contare sul loro contributo, dobbiamo metterli in grado di dare il loro contributo, dobbiamo fare in modo che abbiano il coraggio di darlo, che siano abbastanza irriverenti nei confronti di ciò che dal passato hanno ricevuto, che abbiano molte esigenze nei confronti del sistema e delle generazioni che li hanno preceduti, ma che siano al tempo stesso disposti grandemente a mettersi in gioco e a dare un contributo di fiducia al loro paese per far sì che le nuove generazioni attive nella società italiana diano alla società italiana anche più di quello che le dissipazioni del passato consentono all'Italia oggi di dare a loro. Allora, professor Bruni, era un Monti quasi che sembrava indirettamente rispondere agli scontri, alle manifestazioni di ieri. Beh, può darsi che ne sia stato influenzato, ma però questo dei giovani è sempre stato un po' un suo ritornello importante. D'altra parte, se stiamo lottando per ridurre un po' il debito pubblico prima, insomma, è possibile, è proprio un po' per scaricare dalle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti, ma anche di quelli fra noi che sono più giovani e che fra 20 anni si troveranno con i conti più in ordine. È interessante questo accenno all'irriverenza, cioè pretendere che questi signori un po' più vecchi che hanno condotto le cose in modo così periglioso e sbagliato in questi anni lasciano spazi anche sul mercato del lavoro, per esempio, ai giovani. Però mettersi in gioco, cioè non limitarsi a criticare, ma essere pronti a assumersi responsabilità e a compromettersi anche con un sistema che sarà sempre in evoluzione. Sì, noto, adesso non voglio entrare in polemica, un po' di differenza tra il ragionamento che ha fatto Monti e quello famoso del Ciusi, della Fornero. Insomma, questi giovani o devono scalzare e cercare di scalzare le generazioni precedenti, oppure devono accettare quello che offre il convento senza lamentarsi troppo. Cioè, insomma, delle due l'una, vorrei capire poi quello che... Ma i giovani sono capaci di superare queste, siamo noi che giochiamo con queste parole. No, non noi, guardi, io no. I giovani veri non sono chiusi, entrano nel mercato del lavoro e se gli si lasciano degli spazi se li prendono uno per uno con competenza. Certo, devono anche essere disposti a far sì che vinca il migliore fra di loro, non il più raccomandato. Ecco, l'ultima cosa, Bruni, poi la lascio. Ieri c'è stata un'altra lezione magistralis, però all'Università Bicocca, che è un'università di Milano, dove Rafael Correa, economista e dal 2007 presidente dell'Ecuador, ha spiegato tutti i vantaggi che ha avuto l'Ecuador a rinegoziare il suo debito. Cioè si è rifiutato di pagare una parte del debito che aveva e avrebbe fatto una specie di default tecnico. Il paese oggi viaggia con un ritmo di crescita dell'8% e un rapporto debito-PIL pari al 20%. E io ha detto, io non ho pagato i nostri creditori, ho usato quei soldi per investire in nuove infrastrutture, da lì sta crescendo il PIL. Lei sa che questo sulla rete ha scatenato già modelli imitativi, diciamo. Ma lo può fare solo l'Ecuador, che ha pochi milioni di abitanti, o è una critica un po' più seria a certe politiche del Fondo Monetario, ma non solo, che prevedono solo tagli e tasse per risanare? Ma i debiti si devono ripagare, perché altrimenti poi non diventa difficile farne altri e rientrare sul mercato dei capitali. L'Ecuador è molto diverso da noi come problemi e come collocazione. E da tutti i nostri i debiti si devono ripagare, però ci sono dei momenti in cui i governi si trovano nelle condizioni di avere convenienza a non ripagarlo, perlomeno sperano di avere convenienza, perché poi questi paesi come l'Argentina, l'Ecuador, cioè, vediamo dove vanno a finire. Quindi certamente io sono fra quelli che sostiene che anche in Europa occorrerebbe una regola per permettere ai paesi di, in casi estremi, di fallire, di dichiarare di non essere in grado di rimborsare tutti i propri debiti, di poterlo fare senza creare contagi e panici, esatto. Perché si è regolati da un... E questa legislazione ancora non esiste e non se ne vuol parlare, secondo me è un po' un'ipocrisia, forse per la Grecia per esempio sarebbe questa la soluzione. Sì, anche perché la Grecia è tecnicamente già fallita, ha fatto un'ercata, ha ristrutturato il suo debito del 45%. E ci eviterebbe di farli uscire dall'euro questi paesi. facendoli ristrutturare il debito, perché poi non si chiama fallimento quello di un paese, si chiama ristrutturazione del debito. Sì, o sarebbe un fallimento pilotato, diciamo. Esatto, un fallimento pilotato che permetterebbe di mantenere l'unità dell'euro, ma di riconoscere che ci sono i paesi che non sono più in grado di ripagare senza far sacrifici assurdi. Senza fingere di continuare a prestare soldi alla Grecia, che ieri ha avuto un PIL meno 7,4%. Nel terzo trimestre. Io non so quando e come i greci potranno ripagare questi debiti. Molti chiedono sul debito pubblico italiano. È vero che è un aumento, ma attenzione, non interessa tanto il valore nominale del debito quanto il rapporto col PIL, perché questo interessa poi per i parametri europei. Quindi paradossalmente il debito potrebbe anche crescere di più, ma se il nostro PIL crescesse un po' invece che avere segno meno, il rapporto debito PIL sarebbe più basso, potremmo permetterci tra virgolette un debito un po' più alto. Grazie a Franco Bruni, docente di economia degli intermediari finanziari dell'Università Bocconi di Milano. Di nuovo in diretta, sì, vedo che molti ascoltatori scrivono su Facebook o al 349-238-6666. Beh, quando i debiti sono troppo grandi si possono anche non pagare. Too big to fail, come è successo ai grandi colossi bancari, ma non, sopra tutte le banche, devo dire, durante l'inizio della crisi. Oddio, sì, è chiaro che più grosso è il debito, più devi gestirlo e ristrutturarlo, e più rischi, più paura fa che tu non lo riesca a ripagare. Da lì a dire che siccome hai un grosso debito come l'Italia, tanto non puoi fallire, non lo so, starei più cauto. Starei molto più cauto. Il rischio comunque è chiaro che c'è per tutti. Adesso però parliamo di borsa. Ancora i titoli che sono andati meglio e quelli che sono andati peggio. Sto vedendo, eccoci qua. Sto avendo molti messaggi. Comunque, Impregilo più 1,70%, Fiat più 1,14%, Monte dei Paschi più 0,80%, Unicredit più 0,70%, Luxottica più 0,30%, Ansaldo STS più 0,24%. E qui ci fermiamo. C'è anche Diasorin più 0,20% come Mediolanum. In realtà, chi perde? A2A meno 4,50%, Campari meno 4,30%, Saipem meno 4%, Autogrill meno 3,30%, Mediaset meno 2,70%, e Steam Electronics pure. L'1,80 lo perde Telecom, ma anche Azimut. L'1,30 il calo della Popolare di Milano, ma anche del Banco Popolare e di Lottomatica. Meno 1,1 per Parmalat invece. Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, oggi pochi dati più importanti sono quelli arrivati sull'Europa, che raccontavamo in apertura del programma. La Germania e la Francia crescono, ma la Germania è meno del previsto, la Francia più del previsto. E le borse a Parigi fanno meno 0,50 e a Francoforte meno 0,80. Partiamo da Impregilo, dove si lavora sul nuovo piano, no? Sì, un nuovo piano che insomma vedrà la luce tra dicembre e gennaio e che dovrebbe essere focalizzato, secondo le indiscrezioni che circolano sul mercato, sulla massimizzazione del ritorno sul capitale investito. Questa almeno sarebbe l'intenzione della famiglia Salini, che ha da poco preso il controllo del General Contractor. In più, su Impregilo c'è una forte attesa per i rimborsi legati alla costruzione dell'impianto di termovalorizzazione in Campania, rimborsi che valgono 300 milioni di euro e una corrispondente plusvalenza di circa 200 milioni. Quindi insomma una attesa positiva che ha giovato anche all'andamento del titolo oggi in borsa. Ancora sì, un piano costa magna, diciamo, no? Beh sì, assolutamente, il presidente lui. Per cui, ed è la nuova versione, vita di Impregilo dopo l'operazione appunto con Salini. Fiat più 1,14%, ricordavamo anche l'intervista di Marchionne Automotive News con i dati, le previsioni di vendita nel 2013. Monte dei Paschi oggi respira dopo due giorni difficili, più 0,80%. Fronte opposto, A2A meno 4,50%. In realtà il titolo si era molto mosso verso l'alto dopo la trimestrale. Si era molto mosso, sì, anche ieri ricordiamo un rialzo superiore al 4%. In realtà oggi era anche in territorio positivo, poi dopo la notizia che il Consiglio di gestione ha di fatto dato mandato ai manager per l'emissione di un bond fino a 1 miliardo di euro, il titolo ha invertito rotta e appunto poi ha accumulato queste perdite. In realtà nel pomeriggio diversi titoli sono peggiorati anche alla luce dei dati americani. Ricordiamo che i sussidi settimanali sono arrivati a quota 439.000 e si tratta dell'aumento più elevato dal settembre 2005, questo soprattutto per l'uragano Sandy. Campari continua a perdere, oggi è il secondo peggior titolo, meno 4,30%, ma qui la trimestrale forse conta meno oggi. Sì, qui conta soprattutto il fatto che il titolo sconta il mancato ingresso nel paniere di Morgan Stanley sull'Europa, e quindi diciamo che sarebbe stato un ingresso che avrebbe favorito il titolo, perché poi alcuni operatori tendono a rastrellare quote dell'intero indice fondamentalmente. E lo stesso, diciamo, per lo stesso motivo Autogrill per esempio uscirà da questo indice, che a breve cambierà composizione, sì, e cede il 3,3%. Lo stesso vale per Mediaset, meno 2,7%. DJ 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso continuiamo con la borsa, poi parliamo anche della legge di stabilità e degli stati generali della cultura. Dicevo della borsa, oltre a Campari e Mediaset, -2,70%, ciò Condina. Abbiamo anche Telecom Italia, -1,85%. Si ragiona molto, oggi lo faceva Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera, dell'ipotesi Brasile, cioè cosa deve fare Bernabé, rilanciare, quindi andare a sviluppare un'acquisizione in Brasile attraverso Team Brasil cercando soldi, oppure di smettere. In realtà qui entra in gioco il finanziere copto egiziano Sawiris, che potrebbe essere utile come liquidità a disposizione se Telecom volesse veramente sviluppare questa operazione in Brasile. Mi sembra però che oggi si siano allontanate le ipotesi dell'ingresso di Sawiris. Sì, perché comunque ieri Telefonica ha ribadito la sua convinzione nel restare in Telecom, che è appunto la scatola che controlla, seppur con una quota di poco superiore al 20% Telecom Italia, e dunque diciamo temporaneamente quella che possiamo chiamare una speculazione sul titolo si è arrestata. Di certo comunque fino al CDA di inizio dicembre vedremo giornate verso l'alto e verso il basso per questo titolo. È chiaro, come giustamente tu citavi appunto il pezzo del collega Mucchetti, che la società si trova oggi davanti a una scelta importante, perché da una parte c'è una crescita, uno sviluppo che però presupporrebbe anche una diluizione della componente italiana, e dall'altra c'è il fatto di tenerla in Italia, però doverla spezzettare fondamentalmente. Sul fronte di chi ha perso, anche Autogrill, ci troviamo escluse dall'MSC Global Europe come Mediaset, Azimut -1,80, banche oggi divergenti, la Pop Milano -1,30 come il Banco Popolare, mentre recupera qualcosa Monte dei Paschi +0,80 e Unicredit +0,70%, i migliori e peggiori, Unione Alberghi Italiani +22,6%, c'è notizia? No. Non particolare. Seat pagine gialle sulle risparmio +8,50, Sintesi +9,30, Mea Tecnimon -12,30, Telecom Media sulle risparmio -12,50, i peggiori titoli, SNAI ordinarie -9,30%, Stefanel -8,50%. Grazie a Ciò Condina, Radio Coro, Il Sole 24 Ore. Noi, come promesso, restiamo adesso sul tema italiano, dopo aver fatto tutta l'apertura sull'intervento di Mario Draghi e Mario Monti, due Marios, oggi al Boccone di Milano. Un intervento di Mario Draghi ha riguardato proprio che cosa fare per consolidare i conti, cioè metterli sotto controllo, ridurre debito e deficit, ma soprattutto che cosa non fare più per consolidare questi conti. L'attività economica continua a indebolirsi e gli spread continuano a crescere, il che pone l'accento sulla forma che deve avere il consolidamento fiscale ideale, cioè quello che riduce il deficit e il debito con le minori conseguenze negative sul prodotto di un paese. L'evidenza, presa in rassegna anche in un recentissimo articolo del professor Alesina, l'evidenza prevalente indica che esso deve essere centrato su riduzioni di spesa corrente, e non su aumenti di tasse. Anche chi non condivide questa impostazione è però d'accordo sul fatto che è essenziale che il processo sia recepito come credibile, irreversibile e strutturale, perché abbia effetto sugli spread sovrani e che le condizioni di stabilità dei prezzi e dei mercati finanziari siano tali da non ostacolare il consolidamento fiscale. Chiaro, Mario Draghi, non si usano, non si devono più usare le tasse per sistemare i conti, perché la recessione in atto è talmente forte, ripetiamo, oggi Eurostat certifica una recessione in tutta l'area euro, l'Italia tra i peggiori, ma insomma la Germania cresce meno nel terzo trimestre di quanto non ci si attendesse, +0,2%, la Francia cresce un po' di più, +0,2%, insomma tant'è, e aumentano anche, sono tornati a aumentare i fallimenti in Germania. Ma dicevo, non si può più continuare pensando di risanare i conti aumentando le tasse, perché stai praticamente uccidendo il cavallo. Perché il cavallo, perché di solito si dice se il cavallo non vuole bere è inutile dargli l'acqua, in questo caso vorrebbe bere, non c'è acqua. Gianni Trovati, buonasera. Buonasera a voi. Dacci oggi la nostra legge di stabilità quotidiana, nel senso che voi come Sole 24 Ore state facendo un'operazione meritoria giorno per giorno, raccontando le novità, meritoria, insomma, comunque siete obbligati, delle novità presenti nella legge finanziaria, le detrazioni sui figli, sull'IRAP. Oggi Grilli ha detto da Londra poco fa, il ministro Grilli, questa nostra legge di stabilità inverte la tendenza tagli spesa tasse, questo è il messaggio che abbiamo proposto, ma insomma, è cambiato un po' di tutto. Possiamo provare a riassumere, visto che mercoledì, giovedì prossimo va in Parlamento la legge per diventare legge, le novità principali intercorse? Sì, allora è vero che questa volta non ci sono da raccontare aumenti fiscali, anche perché insomma ne abbiamo già raccontati parecchi nel corso dell'anno, e anche perché è caduta l'impostazione originale della legge di stabilità, cioè lo scambio tra una riduzione delle prime due aliquote IRPEF e quell'intervento retroattivo su detrazioni e deduzioni. Non c'è più niente di tutto ciò, non ci sono i tetti, le franchigie, eccetera, eccetera, sulle detrazioni. La novità però è stato introdotto un aumento delle detrazioni per i figli a carico, soprattutto se il figlio è a meno di 3 anni, e sono state più che raddoppiate, questo nelle ipotesi contenute nell'emendamento dei relatori, più che raddoppiate le detrazioni per i figli a carico portatori di handicap. Mm-hmm. E anche in questo caso, per la prima volta, mentre prima questa detrazione aggiuntiva era uguale a prescindere dall'età, si divide, e se il figlio portatore di handicap è inferiore a meno di 3 anni, è più alta ancora, arriva a 620 euro contro i 550 di quella generale. Cosa succede in pratica? Allora, è uno sconto IRPEF tanto più crescente, tanto più basso è il reddito. Mm-hmm. Però c'è un però, nel senso che questo meccanismo dovrebbe infittire i propri effetti sulle fasce di reddito più basse, ma soprattutto nel caso dei lavoratori dipendenti, le fasce di reddito 10, 11, 15 mila euro sono cosiddetti incapienti, cioè già non pagano l'IRPEF perché hanno altre detrazioni, c'è la detrazione legata al lavoro dipendente, la detrazione per i carichi familiari, eccetera, per cui chi già oggi paga zero o quasi zero di IRPEF ovviamente non avrà alcun beneficio dall'aumento delle detrazioni, perché non puoi togliere nulla da zero. Quindi gli effetti più importanti, diciamo così, saranno per la fascia un pelino più alta del reddito, quindi 15.000, 20.000, eccetera, dove ci saranno sconti a seconda della tipologia di famiglia nell'ordine del 3, 4, 5, 6%. Domani sul giornale, tra l'altro, facciamo proprio i conti in tasca un po' di famiglie, perché la teoria è sconti fino al 40% per le fasce di reddito più basse. La pratica è diversa, perché le fasce di reddito più basse spesso hanno già l'IRPEF azzerate, quindi da queste misure non traggono beneficio. Alcun beneficio. Hai fatto bene a chiarire, perché in certe fasce di reddito tu sei già tasse esenti, e quindi esatto, sostanzialmente quindi non c'è una riduzione se tu sei già a zero. E questo è, come dire, il vizio di fondo inevitabile in tutte le manovre sull'IRPEF per i redditi bassi, nel senso che da un punto di vista, come dire, di sostenibilità del bilancio familiare non cambia assolutamente nulla, perché l'IRPEF è già zero, quasi zero, ma proprio perché il reddito è limitato. Vabbè, ne avranno un vantaggio i redditi familiari non sotto quella soglia, però è chiaro che qualcosa devi fare anche e soprattutto per le famiglie. No, la notizia rimane positiva, sì, diciamo, per queste avvertenze. Sono previste altre modifiche, o a questo punto le modifiche intervenute sono il risultato delle pressioni dei partiti di maggioranza, PD e PDL soprattutto, sul governo, quindi questo dovrebbe essere il testo definitivo? Allora, premesso che siamo in fase sempre più preelettorale, le acque in Parlamento sono sempre più agitate. Premesso che siamo in Italia. E poi soprattutto siamo in Italia, il campo più accidentato è quello delle novità dell'IRAP, cioè l'altro grande fronte. Si aumentano le deduzioni dell'IRAP, cioè l'imposta a carico delle imprese, si aumentano le deduzioni soprattutto per per le piccole e medie imprese, cioè chi ha un imponibile IRAP inferiore a 180.999,9 euro. L'altra misura, e questo dovrebbe arrivare, diciamo, al traguardo con l'approvazione definitiva della legge. Quello che invece rischia di più è questo fondo ad hoc che era stato istituito in questi giorni per l'IRAP dei professionisti, con quelli che si dicono senza stabile organizzazione. Lì c'è un contenzioso infinito, perché si chiede a professionisti di pagare l'IRAP, questi soggetti vanno in commissione tributaria, se arrivati in Cassazione, centinaia di volte, perché se io non ho una stabile organizzazione non sono un'impresa e non devo pagare l'IRAP. Però non c'è un confine netto tra queste due cose. C'era un fondo da 200 e rotti milioni per sanare, diciamo così, definitivamente questa situazione, ma adesso è previsto, ma probabilmente al Senato verrà cancellato, perché ci sono tutta una serie di interventi da finanziare che non trovano copertura, tra cui una parziale esclusione al patto di stabilità dei comuni per gli interventi sul dissesto idrogeologico, perché quando piove scopriamo con grande sorpresa che il patto di stabilità non consente gli interventi neanche minimali di gestione del territorio. Lo scopriamo tutti gli anni, ma poi ce ne dimentichiamo, insomma. E quindi si entra sempre in questo gioco della coperta corta o lunga. Grazie a Gianni Trovati. Abbiamo il traffico adesso e poi chiudiamo con gli stati generali della cultura. Poco fa l'intervento del ministro Passera, questa mattina l'intervento del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Stati generali della cultura organizzati a Roma dal Sole 24 Ore. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo soprattutto dell'impatto sull'economia che può avere l'investimento in cultura, e non è solo la scuola dell'obbligo. Barca ha detto provocatoriamente, però ha fatto bene, non è questione di soldi, o non è solo questione di soldi. Penso che se io vi avessi detto non esiste nessuna questione di soldi, non mi sareste stati a sentire, perché esiste una questione di soldi per la cultura, per la scuola, per l'università, per la ricerca, esiste, e l'ho già detto. Però esiste anche una questione fondamentale che si chiama capacità progettuale, realizzatrice e gestionale. E questo che cosa significa? Che innanzitutto abbiamo bisogno, in questo senso, di una nuova qualificazione delle istituzioni pubbliche. Per esempio le regioni, sì signore, non getto l'anatema sulle regioni, ci mancherebbe altro, però l'esperienza dei fondi europei per il Mezzogiorno è un'esperienza di cui dobbiamo sentire tutto il peso. Stavo per dire vergogna, non voglio esagerare, ma noi non abbiamo utilizzato risorse preziose o le abbiamo utilizzate male. Beh, un Presidente della Repubblica bello pimpante nel suo intervento, l'avete ascoltato, ha moderato i lavori e poi promotore dell'iniziativa, il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napolitano, che è in collegamento con noi da Roma. Buonasera Roberto. Buonasera a voi. Dico, pimpante il Presidente della Repubblica, si può dire? No, il Presidente, oltre che pimpante, secondo me ha fatto un discorso molto importante, che è molto importante anche nello spirito con cui abbiamo concepito il manifesto della cultura e gli stati generali della cultura, cioè come richiesta di un cambiamento vero nella politica economica di questo paese. Cioè il problema della cultura non si risolve con il singolo micro intervento, ma riconoscendo un cambiamento nelle priorità della politica economica del governo, di questo governo e dei governi che verranno. Ecco, l'intervento del Presidente della Repubblica da questo punto di vista è un punto, secondo me, di non ritorno. Cioè lui è per la prima volta che dice con chiarezza che bisogna riconoscere anche a questo governo il merito assoluto di averci fatto recuperare credibilità a livello internazionale, però questo governo, come gli altri, persiste nella dilapidazione del patrimonio culturale del paese, persiste nel trascurare l'investimento in ricerca, persiste nel non affrontare l'emergenza civile della cattiva burocrazia. Ecco, quindi da questo punto di vista il Capo dello Stato, con più che piglio, cioè con una inusitata passione da questo punto di vista, cioè con un'attenzione civile più forte e comunque evidente, chiede al governo di dare un segnale, cioè dice che governare, fare politica significa anche dire molti no per dire alcuni sì importanti, e i sì importanti sono: bisogna che con la legge di stabilità, adesso, non fra 20 anni, questo governo dia una risposta seria sulla ricerca, dia una risposta seria incrementando quello che c'è, di quello che si può, i fondi per la tutela del patrimonio, ma soprattutto faccia quello che è a costo zero. Non si capisce perché debba esitare tanto a fare un provvedimento esecutivo di semplificazione. È pazzesco, sì. A me ha molto colpito questa ricercatrice molto brava, che si chiama Ilaria Capo, un servitore dello Stato, sì, un veterinario, che si rivolge al Capo dello Stato e quasi implora al Capo dello Stato: guardi, faccia qualcosa per fare in modo che i vizi della burocrazia italiana, le regole della burocrazia italiana non mi costringono a licenziare 40 precari di 70 che lavorano per il nostro staff. È pazzesco, cioè lei ha detto con chiarezza, dice: noi utilizziamo i fondi comunitari come gli altri paesi, ma dobbiamo usare le regole italiane, che significa fare un bando, una selezione, poi un altro bando, poi una selezione, poi la chiamata. Il risultato anche rispetto all'utilizzo di questi fondi comunitari, anche quando ci sono, nella scarsità di risorse, tu li puoi impiegare 6 mesi dopo la data in cui ti sono stati dati. Ecco, diciamo che in un momento di recessione, di difficoltà assoluta, di un paese che è uscito dal pericolo più grande, ma non è fuori pericolo, ecco, forse il segnale che viene da questo intervento del Capo dello Stato è un segnale politico, al governo di cambiare, come testualmente ha detto il Presidente della Repubblica, la scala delle priorità. Ecco, questo per dire che l'investimento in cultura non è semplicemente l'investimento, che pure è importante nella parte più classica e in senso stretto, musei, formazione, ricerca, ma è un investimento che poi fa ripartire, oltre che essere un investimento per il futuro, è un investimento che fa ripartire l'economia in senso stretto. Voi avete sviluppato l'indice 24, direttore, cos'è l'indice 24? Ma l'indice 24 è la cultura. Abbiamo voluto misurare per una volta in modo differente, cioè il grado di riconoscibilità della nostra industria culturale fuori dall'Italia. E abbiamo potuto verificare che il nostro paese, che ha il patrimonio artistico più importante tra i paesi europei, e che nel Novecento era il primo, aveva un indice di riconoscibilità al primo posto nel mondo, è passato da 600 a 75 più o meno, insomma ha perso praticamente 6 volte di appeal, una cosa drammatica. Contemporaneamente l'indice di l'abbiamo chiamato di export, non è export in senso stretto, è un indice di riconoscibilità del marchio Italia dal punto di vista dell'architettura, dal punto di vista museale, anche lì ci siamo, la nostra presenza, la nostra capacità di esserci sul mercato mondiale si è ridotta a un terzo. Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che noi abbiamo un grande lavoro da fare sul brand storico culturale italiano, perché questo brand è alla base poi del successo del design, alla base del successo della moda, alla base di tutto ciò che è vivere italiano e stile italiano, e quindi, cultura italiana. E figuriamoci sull'agroalimentare poi. Direttore, l'ultima domanda: come hanno risposto? Perché avevate 4 ministri oggi lì, Fabrizio Barca, Lorenzo Ornaghi, Francesco Profumo. Intanto voglio sottolineare che è stato un forum aperto, una prima volta che abbiamo veramente aperto un teatro a tutti, e quindi c'è stato anche un dibattito. No, ma siccome abbiamo ancora un minuto, Roberto, ma c'era anche Passera che ha chiuso i lavori, il ministro, ma c'è stata una risposta poi, perché Napolitano a loro parlava, non a noi. Diciamo che non c'è stata la risposta che sono Napolitano, secondo me. Ci sono state alcune risposte però concrete di quello che abbiamo noi chiesto come Sole, però diciamo per parte nostra insisteremo, perché la legge di stabilità è un'occasione per dare risposte strutturali. È importante comunque che il ministro Profumo dica che impegna i 2/3 dei suoi fondi comunitari per sostenere la rete delle università italiane, la rete dei centri di ricerca, sostenendo il talento dei giovani. È importante che il ministro Bacca si sia impegnato entro il 20 gennaio a comunicare l'attuazione del progetto Pompei. È importante che entrambi, in cooperazione con il Ministro della Cultura, si siano impegnati a affrontare il mostro burocratico che paralizza le decisioni nella gestione dei musei. Però voglio dire, all'atto pratico l'intervento strutturale significa finanziare il bonus della ricerca, significa aggredire trasversalmente il problema burocratico, significa elevare quel ignominioso 0,22% del PIL di investimento in cultura, a un tasso che non sia quello della media europea, ma sia un tantino meno indecoroso. E io devo dire che di tutto quello che hai detto su una cosa da sempre battiamo, non si capisce perché questo governo, che pure ha il problema di mantenere i conti in ordine e di ridurre il deficit, non faccia una legge quadro di sburocratizzazione per le imprese, quindi anche per le imprese culturali. Sono costi impropri a cui non viene nulla allo Stato, non entra nulla allo Stato in tasca, quindi sono solo costi impropri per gli imprenditori di qualunque genere, quindi anche nel mondo e nella cosiddetta industria culturale. Grazie al direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, da Sebastiano Barisoni a voi in ascolto l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.